Buon pomeriggio a tutte e a tutti, la vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa e come te sbagli, essendo giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues e non è un giovedì qualsiasi. Oggi è il 31, quindi stasera vi starete preparando a feste, festini, festoni. Ah no, mi sa che ho sbagliato anno, vabbè, non fa niente. Comunque qualche cosa farete, dai, una cenetta a pochi amici, una cenetta intima, vedere i botti dalla finestra. Speriamo che l'anno prossimo torniamo a fare e festoni. E comunque ci siamo sempre noi a tenervi compagnia anche in questa ultima giornata dell'anno, sì, sperando che poi il prossimo sarà nettamente migliore. E allora una puntata in realtà poi specialissima, perché saranno 2 ore quelle che passerete insieme a noi. Sì, faremo prima un'ora di Strictly Roots Rockers Music, poi andrà in onda come al solito nel palinsesto del giovedì pomeriggio La Schiena del Soul e subito dopo torneremo con un'ora di dub music, Rabba Dub Music, per tenervi compagnia fino a sera mentre state preparando, mentre state facendo le vostre cene, i vostri manicaretti. E quindi rimanete incollati anche alla fine di Attica Blues, riprenderemo alle 19 fino alle 20. Una puntata speciale anche perché comunque abbiamo selezionato tutti i brani in scaletta dalle nostre collezioni di vinili. Eh sì, e cominciamo subito con un brano beneaugurante, nella speranza che questo mondo si accappotti, si ribalti, che chi sta in alto vada in basso e chi sta in basso vada in alto, anzi che siamo tutti quanti al centro in un mondo diverso. La canzone tratta dal film musical più fricchettone del mondo, sto parlando di Air, e loro sono i Mighty Diamond che rifanno Aquarius, una canzone in questo caso chiamato Let Ja Sunshine. When the Nell'isoletta di Giamaica si ascolta un sacco di musica, però storicamente la Giamaica non importa musica, essendo comunque un paese anche povero, in cui è difficile anche proprio far arrivare i dischi, i supporti, ma rifaceva in forma reggae le varie canzoni che diventavano famose nel mondo, come in questo caso che nel profondo roots della musica dei Rockers All Stars viene rifatto un pezzo storico, Datemi un martello praticamente. Eh sì, If I Had a Hammer è in questo caso protagonista. È la voce di Roman Stewart. È vero che anche la Giamaica ha prodotto grande musica, hanno cominciato con lo ska, con rocksteady, dopo che si importava la musica, quello che era il soul americano, e negli anni 70 il roots reggae l'ha fatta da padrone, con pezzi suonati come questo che stiamo per ascoltarci, che tra l'altro è di un'etichetta bellissima, rosa, e sono rare in Giamaica le etichette rosa, ma il personaggio in questione poteva permetterselo. Sì, parliamo dell'etichetta della Fox, questa Give Me è uscita nei primissimi anni 70. Lui ovviamente una delle voci più belle del roots e in generale della Giamaica, Barney Spear. Yeah. up every day, only want to receive. Sit up every day, only want to receive. You never have a thing to give away. You never have a thing to give away. But you must give me what is mine. Give me, I want it. Give it to me. Belongs to me. You go your ways and I go mine. You go your ways and I go mine. You go your ways and I go mine. I sure I will hold my head up straight on the line. I sure I will hold my head up straight on the line. Passiamo adesso a Roots, quello più deep, un personaggio a cui sono particolarmente affezionato, ovviamente sto parlando di Max Romeo. Questo è un dischetto bellissimo, 7 pollici alla Upsetters, ovviamente con la musica degli Upsetters e le sapienti mani di Lee Scratch Perry dietro. Sto parlando di One Step Forward. Onward, forward, don't step backward. Deborah Babylon, one step forward, two step backward. Down in a Babylon, one step forward, two step backward. Down in a Babylon. Adesso passiamo a Leroy Smart, un maestro delle canzoni d'amore e che è stato sulla scena reggae dall'inizio degli anni 70. Lui che ha lavorato con grossi produttori come Gussie Clark, Jojo Hawkin e Bunny Lee. Sì, tra l'altro era anche presente nel film Rockers, insomma non è un personaggio da niente. Questa canzone però nello specifico non è una canzone d'amore ma una canzone ribelde, una canzone rastafare e si intitola So Strong. Se parliamo di canzoni d'amore non potevamo che passare a Gregory Isaac. Eh sì, io lo dicevo sempre, il reggae parla di guerra e parla d'amore, e questa ovviamente parla d'amore, lui è il Currula Front Door. The key to her front door, 'cause it seems she didn't care about me anymore. I gave her all the love I had and she spilled it, yeah. So I packed my things into a shopping bag and decided to quit. But Lord know that I don't wanna be lonely tonight. I don't wanna be lonely tonight. I said I don't wanna be lonely tonight, but I would rather to be lonely than to live a dirty life. All of those things that we've been through used to make me happy, now make me blue. I didn't believe the things that I've heard, no, but now I've seen it with my own eyes. I know actions speak louder than words, but Lord know that I don't wanna be lonely tonight. Granny know that I don't wanna be lonely tonight. I mean it, yes, I mean it. I don't wanna be lonely tonight, but I would rather to be lonely than to live a dirty life. I'm so sorry we've been true. I'm so fed up, I don't know what to do. All of those things that we've been through, oh gosh, used to make me happy, now make me blue. I didn't believe the things that I've heard, no, but now I've seen it with my own eyes. I know actions speak louder than words, but Lord know that I don't wanna be lonely tonight. Granny know that I don't wanna be lonely tonight. I mean it, yes, I mean it. I don't wanna be lonely tonight, but I would rather to be lonely than to live a dirty life. I'm so sorry we've been true. I'm so fed up, I don't know what to do. Don't wanna be lonely. Passiamo adesso a un artista poliedrico, un artista che ha fatto radio, che ha fatto televisione, che ha aperto una grande etichetta, la Dread The Control. Sto parlando di Michael Campbell, ma questo è un brano all'inizio proprio della sua carriera, un brano che l'ha reso celebre in Giamaica, perché comunque in Giamaica la musica racconta storie, e questa nella specifica è la storia dei barbieri e di come i Rasta si relazionano ai negozi di barbieri, che ovviamente hanno il loro pubblico, ma non certo quello dei Rasta. Barber Saloon, Michael Campbell. Now here comes musical disco called the Barber Saloon. And I'm a Gemini and I was born in June. You know? Wow! A good cash. Hey! We say we come on a DJ Lux, come here man. Come on a DJ Lux, come here man. And let me tell you a story. And let me tell you a story. I was walking down the road one afternoon and sight a naughty Jane in a barber saloon. He ma cut off him head and he ma turn ball head. I cut off him head and he ma turn ball head. That's a rude little dread like that. I tell you this a dread he must a idiot. What a rude little dread like that. I tell you this a dread he ma idiot. Cause he no love still a see I. Strike him dead. I think they say that Jah Ra go strike him dead. the time too hard. Them can't look for you cause the time too hard. The time so dread him up in chima up in bed. The time so dread him up in chima up in bed. They look a piece of bread. I tell you see that Jaja I go strike him dead. Because he used the razor upon him head. He used the razor upon him head. And he might turn bald. And so me tell you he might turn bald. And fight an Nazi dread in a barber salon. Who are we going to like that? I'm not going to be my idea. I tell you, I'm a love to last night. I tell you, I'm a no Rastafari. I tell you, the dead want to be dead. And the dead want to be dead. The dead want to be dead because I'm a baller. Because I'm a no Celestia. Because Jaja is the king and is the king of kings. Jaja is the Lord and he's the Lord of love. Me say if you love me my brother. I saw me tell you say if you praise me my sister. Because every night you pray to the Lord of Lord. And every day you pray to the King of Kings. Cause he's one the last eye. I saw me tell you he's my one Rastafari. E a proposito del rapporto fra i cantanti giamaicani e i barbieri, ricordiamo anche la storia di Toots Hilbert, che quando si trasferì a Kingston giovanissimo aveva iniziato a lavorare proprio in un negozio di barbieri, ed è proprio per quello che poi lui ha detto non si è mai fatto crescere i dreadlocks. E allora cambiamo anche genere, cambiamo stile di reggae, ma rimaniamo sempre negli anni 70. Passiamo al DJ Style, lui è uno dei più grandi artefici insieme direi a Uroy e ai Roy. Parliamo di Big Youth con la sua Ja Ja Golden Jubilee. I said a few thousand went and visit their silver jubilee. So calling strong, calling one and calling all. Come and join and sing with me. And there's a golden, that's a golden, that's a golden jubilee. Said a thousand shall fall at thy side and 10,000 at thy right hand. Rastafari. Rastafari. Said everyone I want to run, come see. Call this one a cause a golden jubilee. And this a chant a cause a golden jubilee. Then I'm calling all me brothers and my sisters with me. This a hearing of the golden jubilee. Then they want to come and cross the border. Singing on his majesty order. So we be calling Swanja golden jubilee. That is called a golden jubilee. Say gather all his sheep, say to gather all his elders. Nations and towns of nations. This a da da golden jubilee. Call this one a golden jubilee. Now John Bongo Irie. In this a-da-da-da-da golden jubilee. Ready to wonder what you, and if you want to know and what you got, now make a chant it annually. This a-here the golden jubilee. See that chanting all me brothers and my sisters with me. Chanting all nations to try and see. Coming at the golden jubilee. Not the college one, the golden jubilee. Sing not to say I'm coming past the border. Singing under his majesty order. I hear we call this one, the golden jubilee. Naughty, naughty, naughty, make we chant bongo irie. In this a-da-da-da-da golden jubilee. Ready to wonder what you, and if you want to know and what you got, now make we chant it annually. I hear the golden jubilee. See that chanting on me brothers and my sisters with me. Chanting on nation to try and E siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Attica Blues nel nostro consueto orario, ma vi ricordiamo anche che per questa ultima puntata dell'anno ci ritroverete anche dalle 19 alle 20 con una puntata più dub. E ricordiamo anche che sono tutti brani tratti dai nostri vinili, dai nostri 45, dai nostri 33 giri. Eh sì, questo è un brano a cui sono particolarmente affezionato, è un brano nella versione di Johnny Clark, un brano allegro, Every Day I Wandering, Wandering. Oh, oh, yeah. Every day you're wondering, wondering, what will you do? Every day you're wondering, wondering, when you'll be free. You wouldn't even try to reach the top, then you will see. You wouldn't try to reach the top, then you will see. Every day you're wondering, wondering, what will you do? Every day you're wondering, wondering, what will you do? Oh, what will you do? Always try to talk bad things about you as you walk and walk along each day, wondering, wondering. Every day you're wondering, wondering, what will you do? Every day you're wondering, wondering, when you'll be free. You wouldn't even try to reach the top, then you will see. You wouldn't even try to reach the top, then you will see. Every day you're wondering, wondering, what will you do? Every day you're wondering, wondering, what will you do? Oh, oh, oh, oh. Wondering. Oh, oh, yeah, yeah. People will always try to talk bad things about you as you walk and walk along each day. Wondering, wondering, every day you're wondering, wondering, what will you do? Every day you're wondering, wondering, when you'll be free. You wouldn't even try to reach the top, then you will see. You wouldn't even try to reach the top, then you will see. Every day you're wondering, wondering, what will you do? Every day you're wondering, wondering. Diciamo che il reggae ha avuto un king, un re che è Bob Marley, ma anche un crowned prince, un principe incoronato che è Dennis Emmanuel Brown. Beh, questa canzone stiamo per ascoltarci li racchiude tutti e due, in quanto il pezzo originale è di Bob Marley, ma la versione è cantata da Dennis Brown. Questa è Natural Mystic. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why, no. To go living through my past, won't tell no lie, no. There's a natural mystic blowing through the air. And if you listen carefully now, you will hear. Though I try to find the answers to all the questions they ask, though I know impossible to go living through my past, won't tell no lie, no. Oh hell, there's a natural mystic blowing through the air. Oh yeah, oh hell, hey, oh hell, really and truly, oh more, hey, to go living through my past, won't tell no lie. There's a natural mystic blowing through the air. Whoa, natural mystic. Hey, if you listen carefully now, you will hear. One and all got to face reality. Fino adesso ci siamo ascoltati tutti i nomi forti del roots, questo genere sviluppatosi in Giamaica nei primi anni 70. E adesso andiamo avanti invece con tre artisti un po' più nascosti, ma comunque autori di tre brani davvero meravigliosi. Parliamo di Dawe Congo, Peter Noel e Sowell Radix. Iniziamo allora con Most Naturally di Dawe Congo. I know it's so good to be in touch with reality. Most definitely, every man has a life to live, so there is no need to feel neglected. And we don't want no crab in a barrel, there is an alternative. Don't grudge a man for what him up, we were born naked, we are equal. There is a chance for your survival, so prove yourself, can not partially know. Most naturally, we must all come face to face with reality. Most naturally, naturally, you hear me? Happiness can be building your own ability, missing naturally. Watch achieve your goals, keep moving along. Have endured of self-reliance, determination is so vital. So don't end up on Papa Road, cause there's no comfort out there in the cold. Don't in the world and lose your one soul. Don't throw your babes against the stone. Most naturally, we must all come face to face with reality. Most naturally, naturally, you hear me, happiness can be found in your own ability. I say naturally, doing it naturally. We have no wings and we can't fly, but there is no need to sit down and cry. Don't sit around waiting for a sign. There is no mountain that we can climb. So smile with the sunshine. Smile with the sunshine. And hear these words of mine. When things change and time get rough, grandma used to say it had but hush. So never you think about giving up, just keep the faith in Jah we trust. Most naturally, we must all come face to face with reality. Most naturally, naturally, you hear me, happiness can be found in your own ability. I say naturally, seize your opportunity, opportunities. Oh, most naturally, we must all come face to face with reality. Most naturally, naturally, you hear me, happiness can be found in your own ability. Seize your opportunity. Set straight your priority, stand in line and wait your turn. Hard grace flow just hold and burn. We have got to move forward with guts and nerves, guts and nerves. Oh, every man has a life to live, so there is no need to feel neglected. And we no want no crab in a barrel. There is an alternative, I am positive. Most naturally, we must all come face to face with reality. Most naturally, naturally, you hear me. Passiamo ora a una canzone dal forte contenuto sociale, Helping Hand, darsi una mano, aiutarsi, ognuno secondo le proprie possibilità e con le proprie capacità, su una versione storica, una versione della Salta Massagana fatta dalla Navarra All Stars. Questo sette pollici è uscito appunto per la Navarra, Helping Hand, Peter Noel. and give an helping hand. Want someone try and understand. Love is the thing a man should have. Love is the thing that a man should have. Don't you be greedy, give something for the needy. Don't you be greedy, give something for the need. When you can, when you can, when you can. When you can, when you can, when you can. When you can, when you can, when you can. Prima ci siamo imbattuti in Michael Campbell, mixato dalle sapienti mani di Kintabi. Michael Campbell che diventerà poi Mikey Dread con la sua Dread at the Control. In questo caso lo ritroviamo proprio in versione di produttore. La Dread at the Control ha prodotto pochi brani, ma tutti veramente topici, come questo. Eh sì, uno di questi è sicuramente questa All Night Jamming di Sowell Radix. Feel so nice. Piano piano iniziamo anche ad avvicinarci alle sonorità più dub. In questo caso non è proprio dub, ma il gruppo comunque richiama quei suoni, quei ritmi degli anni 80. Loro sono i Twinkle Brothers, questa è la loro Free Africa. Concludiamo questa prima parte di Attica Blues ancora con un personaggio abbastanza sconosciuto. Eh sì, stiamo parlando di Johnny Scar, che ha fatto pochissimi pezzi, e tra l'altro stiamo parlando di Africa. Quello prima era Free Africa dei Twinkle Brothers, questo è United Africa di Johnny Scar. This is 49209, calling from the gate of Mount Zion. Yes, Zimbabwe. Divided we fall. Society, my coming from the gate of Mount Zion. Zimbabwe. Ci stiamo ascoltando adesso è Dub It in Africa, il dub di United Africa. Le versioni dub, rabadab, sono delle versioni mixate dalle sapienti mani degli uomini di studio, uomini come Kintabi, come Lee Perry, ce ne sono stati tanti, tantissimi. E noi dopo la Eschina del Sol alle 7 faremo un'altra ora di trasmissione tutta dedicata a questi personaggi, alle loro manipolazioni della musica. Eh sì, sono quasi le 17, ma non vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, ma praticamente a fra due ore. E allora, sì, appuntamento alle 19 in punto ancora con noi. siamo ancora noi, non sono le 16, non vi siete sbagliati, sono le 19 di questa ultima giornata dell'anno e noi siamo ancora qui a farvi compagnia con questa seconda parte di Attica Blues dedicata al dub. Allora, io come prima cosa vorrei fare un grandissimo saluto alla nostra sorella Marta che ci precede con La Schiena del Sol ogni giovedì pomeriggio e con cui compagna d'avventure di una vita da quando eravamo dei frugoli di Bargoli, persona stupenda, non facile, coerente, magnifica, quindi un bacione a te Martolì, buon anno e buon anno a tutte e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. E ovviamente anche buon anno da parte nostra. E allora noi iniziamo questa puntata con una produzione di Bunny Lee, un grandissimo produttore giamaicano che ci ha lasciato nello scorso settembre, a cui anche abbiamo dedicato un'intera puntata. Allora, il titolo è My World Dub Down e protagonista è Courtney Campbell. My world is falling down. Yeah. My whole world is falling down. I wake up in the morning. I think I want a drink. I can't even drink water from the kitchen sink. Where's the chore that we're lovers? Being raised from above. Get up, get up, get up. Bunny Passiamo adesso alle sapienti mani di King Tubby. Questa è una canzone dedicata a tutti i black man in ascolto, Ethiopian version. Passiamo a uno dei principali artisti dub degli anni 80. Scientist, vero nome era Overton Brown, nato a Kingston il 18 aprile del 1960, e poi divenuta una delle figure più distintive della musica giamaicana. Lui che ha iniziato proprio a muovere i primi passi dallo studio di King Tubby. Ci ascoltiamo questa Golden Goal. I barely leak Uncle Joe. Craven, I got you. Bobby, no bad dog want to licky, licky, woy yo. We'll be right back. have nothing in him bankrupt. But he might be under one padlock, and he might be top on the hilltop. Passiamo adesso a Prince Alla, un personaggio che grazie alla Militant Warrior Promotion e a Rasdani è entrato anche nelle produzioni europee, nello specifico italiane, quindi un super bless a Rasdani. Questa è la sua Stone. Passiamo adesso a quello che probabilmente è il personaggio più fuori di testa della musica giamaicana, un personaggio che abbiamo visto coi capelli verdi, coi capelli viola, che in Giamaica non è una cosa comune, ma un personaggio comunque a cui abbiamo visto dar fuoco due volte, ben due volte al suo studio, un grandissimo personaggio di studio che ha cominciato con gli otto tracce ed è finito in Svizzera a lavorare con i mixer e con i programmi più moderni. Stiamo parlando di Lee Scratch Perry, che comunque lo possiamo dire uno dei grandi geni non solo nella musica reg dub, ma in generale nella musica del Novecento. Lui che ha più di 80 anni ormai, ma è davvero in splendida forma. E allora qui ci ascoltiamo, sì, una delle sue grandissime produzioni insieme agli Upsetter. Questa è Brotherly Dub. We'll be right back. Adesso invece è il grande momento di un personaggio roots, un personaggio che ha fatto parte anche dei Black Uhuru agli inizi, quindi saluto la Sister Marta che lo ama particolarmente. Lui è Don Carlos e questo è Big Mouth Dub. Enough of them a run up the mouth. Enough of them a say them a the best. But when it comes to the test, I know them a want best. Oh oh. So take a seat and then you take a rest. I leave it to the people to suggest who are the best, who are the best in a this a contest. Boy, boy. Adesso passiamo a un gruppo, in realtà non propriamente dub, parliamo degli Ashwad che negli anni 80 ha rivoluzionato il sound, il reggae inglese, ma che poi nel 1982 ha fatto uscire per la Mango, che era la sotto etichetta dell'Island, l'album The New Chapter of Dub. Un album importante anche perché vede la collaborazione con il dub master all'epoca emergente Mikey Dread. Noi ci ascoltiamo la traccia che chiude questo splendido album, Ghetto in the Sky. Children, I wonder do they know children, I wonder do they know where you're coming from? Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. We'll be right back. dalla Giamaica ci siamo spostati in Inghilterra e continuiamo ancora ad ascoltarci i grandi artisti del dub inglese. Sì, lei è una sister Aisha, mixata dalle sapienti mani di Mal Professor alla Airwall Music. Questa è la sua Guide and Protect. Again and again. Rimaniamo in Inghilterra con un collettivo questa volta, un collettivo forte, un collettivo politicizzato, un collettivo che addirittura andava in giro con il carro armato per le strade di Londra. Sto parlando di Zion Train, naturalmente. Sì, che poi negli anni hanno anche cambiato più volte formazione. Questa probabilmente era quella più bella e ci ascoltiamo questa Dance of Life. Dance of life, dance of life, dance of life, dance of life. Life, dance of life, dance of life, dance of life, dance of life, dance of life. concludiamo anche questa seconda parte di Attica Blues con un live lunghissimo, parliamo di quasi 20 minuti, registrato all'Alexander Palace di Londra nel 2014. Protagonista è una formazione meravigliosa neozelandese. Loro sono i Fat Freddy's Drop e questa è Shiver Van. Thank you. Questa seconda ora di Attica Blues volge il termine, anche questo 2020 volge il termine, ma noi vi ricordiamo una cosa importante, che quest'anno, come tutti quanti gli anni da ormai lungo tempo, è uscita la nuova Scarceranda con il quadernino abbinato, quindi vi esortiamo a prenderne una copia. Vi ricordiamo che potete spedirne una copia negli istituti penitenziari, ovviamente non la dovete spedire voi, basta che mandate un nominativo di un vostro compagno, di un vostro familiare recluso alla mail ondarossa@ondarossa.info e noi ci premuniremo di mandare la Scarceranda a questa persona. Vi ricordiamo che sulla Scarceranda non ci può essere scritto nulla, altrimenti non può entrare nel carcere, quindi sarà vostra premura di comunicare alla persona in oggetto che gli state mandando voi la Scarceranda. E vi ricordiamo anche che quest'anno è uscito il calendario della radio, il bellissimo calendario realizzato da Zero Calcare. Quindi in ogni caso questi gadget, come chiamarli, queste produzioni le trovate alle serate della radio, anche se come tutti sappiamo in questo periodo non è facile fare serate, oppure potete venire in via dei Volsci e prendere direttamente in sede, consigliabile la mattina che c'è sempre qualcuno, anche il pomeriggio trovate qualcuno a cui potete chiedere sia la Scarceranda col quadernino abbinato, sia il meraviglioso calendario, che tra l'altro è un unico foglio disegnato da Zero Calcare con tutti i mesi, veramente bello, ve lo consiglio. I hear you talking about love. sono quasi le 20 del 31 gennaio 2020. Allora, che dire, se vi state sintonizzando solamente adesso, o più in generale, se volete passare la fine dell'ultimo dell'anno ascoltando il podcast di queste due ore di trasmissione, una di Roots Reggae e una dedicata ai grandi maestri del dub, non dovete far altro che andare sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info, andarci a andarvi a cercare la nostra pagina, quella di Attica Blues. È facile, andate su Palinsesto, giovedì pomeriggio trovate le varie trasmissioni, cliccate su Attica Blues e vi si apre la nostra pagina con tutti i podcast, tra cui questo, ognuno corredato da una breve descrizione, la scaletta di tutti quanti i brani e una foto che rappresenta la puntata. E vi ricordiamo come al solito anche le nostre pagine social, ci trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche su Spotify, dove troverete la nostra ricchissima playlist che ormai è arrivata a più di 100 ore di musica nera. In tutti i casi basta cercare Attica Blues. Allora, noi vi rimandiamo al 2021, a giovedì prossimo, con l'augurio che passiate un bel fine, una bella fine dell'anno e un bel inizio, con l'augurio che questo 2021 sia meglio del 2020 che abbiamo appena passato. Sì, apriremo l'anno con una bellissima puntata, perché ricorderemo Albert Griffith, lo storico cantante fondatore dei Gladiators, che ci ha lasciato proprio nel mese di dicembre, in questo anno davvero nefasto. E allora, che dire, sì, davvero buon anno di cuore a tutti e a tutte. E allora ci sentiamo giovedì prossimo, come al solito, dalle 4 alle 5 e come te sbagli sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Like a runaway, head down to the ground, captivated by the sound. Try but you can't speak when you're motivated by the seed. The seed. I don't Aya.